Incontri di Gianfranco Fabi. Calling you, buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Stiamo chiamando, chi stiamo chiamando? Alberto Contri è l'ospite di oggi, l'ospite che ha scelto questa canzone. Prima di presentarlo però gli chiediamo perché I'm calling you. Beh, per una somma di motivi. Innanzitutto mi ricorda questo splendido film che è Baghdad Café, mi ricorda dove è stato girato, che è la Route 66, che io ho visitato varie volte, girato per lungo e per largo. E poi perché secondo me è anche una canzone adatta ai nostri tempi, perché dice: io ti sto chiamando, tu mi senti che ti sto chiamando. Sembra che uno parli all'altro su Facebook e gli dica: guarda che voglio parlare con te, ascoltami. E poi dice anche: entrambi sappiamo che un cambiamento sta arrivando e si sta avvicinando, così saremo liberi. Insomma, c'è tutto un po' lo spirito del tempo, pur con questa grande lo spirito del tempo, soprattutto emozione, lo spirito evocativa, lo spirito della comunicazione. Alberto Contri è uno dei maggiori esperti italiani di comunicazione, attualmente è presidente della Fondazione Pubblicità Progresso e di Lombardia Film Commission, è un rappresentante della vecchia guardia che si trova a dover combattere con i nuovi mezzi, con uno spirito molto giovanile. Allora, Alberto Contri, delineiamo un attimo la sua esperienza che parte come? Ma io infatti mi ritengo un giovane dalle tempie grigie, nonostante abbia appena compiuto 67 anni, perché sono sempre stato attento all'innovazione e molto curioso. E ho cominciato a lavorare in una maniera del tutto inconsueta, nel senso che allora, essendo appassionato di musica fin da piccolo, mi era capitato di suonare nella Bovisa New Orleans Jazz Band, che era la prima banda di jazz tradizionale d'Italia, famosissima, e il direttore creativo della Mondadori, che suonava il clarinetto e la tromba in questa banda, quando io avevo bisogno di lavorare, all'improvviso morte di mio padre, mi disse: ma vieni, sai fare il copy? No, vieni che te lo insegno io. Sono andato con lui in Mondadori e ho cominciato a imparare il mestiere di copywriter sul campo. E poi via via ho fatto una lunga carriera nelle multinazionali della pubblicità, prima come creativo e poi anche come amministratore. E poi da lì ho fatto altre cose, per cui sono diventato presidente dei pubblicitari italiani, ho fatto il consigliere della RAI, l'amministratore delegato di Rainet. Insomma, ne ho fatte di ogni colore. Tante devo dire cose, quella di cui ha più nostalgia. Ma dunque, da un certo lato, sono tre, perché l'agenzia di pubblicità, l'ultima in particolare, la Mack & Erickson, mi sono trovato benissimo, grande respiro internazionale, quindi grande possibilità anche di viaggiare, andare a New York, tornare indietro, vedere colleghi, Londra, insomma, molto bello. Poi naturalmente andavo a Londra di corsa a Ronnie Scott a sentire il jazz alla sera, e così come a New York nel Greenwich Village. E poi la RAI sicuramente in quel periodo, parlo del 98-2002, probabilmente è stato l'ultimo consiglio, così dicono tutti, in cui pur nelle divisioni politiche ci si è occupati molto a fondo dell'azienda, quindi è stata un'esperienza anche abbastanza esaltante. E poi forse la più stimolante, quando un anno dopo sono diventato amministratore delegato di Rainet, me l'hanno lasciato fare perché non interessava niente a nessuno, non c'erano soldi, non sapevo cos'era. E allora io ho preso questa scalchignata piccola società partecipata e in 5 anni l'ho lasciata con 450 siti gestiti, 7 canali di web TV con 30 milioni di video caricati. Insomma, una cosa che la BBC e France Television, quando venivano a vedere, erano stupiti. Quindi mi sono molto divertito. Quindi un'esperienza multimediale. Multimediale, sì. Infatti oggi non ho timori di affrontare quello che invece i miei colleghi fanno fatica, i miei coetanei fanno fatica, perché loro, anch'io per la verità, devono ancora tradurre quando hanno in mano l'iPad o l'iPhone o l'iPod, no? Noi, alla nostra età, invece i nostri figli lo fanno istintivamente, quindi c'è un cambio generazionale, però tenersi aggiornati ti aiuta a capire anche i fenomeni. Sempre tenendo la musica sottofondo? Questo sì. Qualche serata suonando sì. Ancora? Sì, ho anche una band di 16 elementi, molto complessa da riunire, ma con grossi musicisti che vanno da batterista di Venditti al sassofono di Zucchero, lo slide guitar di De Gregori. Facciamo musica country, pop, molto bella, però molto faticosa. Anche questo. E allora torniamo un po' a vedere come questo mondo della comunicazione, come è cambiato il mondo della comunicazione negli ultimi 40 anni. È stata una rivoluzione epocale quando ha cominciato la sua esperienza come pubblicitario, comunque nel mondo della comunicazione. Forse si scriveva ancora con le vecchie lettere 22, c'erano ancora i fax, non c'era ancora, ovviamente non c'era internet. Si cominciava a intravedere qualche novità? Io avevo proprio una lettera 22 verde, me la ricordo benissimo, e clic, clac, clac, battevo sui miei tasti e strappavo il foglio ogni volta che non veniva bene perché volevo avere il foglio bianco. Quindi mi ha accompagnato per molti anni. Allora erano gli anni, sto parlando della fine degli anni 60, quindi 60, 70, 80, poi l'inizio della TV commerciale, erano gli anni degli spot, delle grandi campagne molto belle, della Milano da bere, addirittura stiamo parlando degli anni 80 in questo caso. E la televisione aveva un ruolo assolutamente primario, insomma, per fare qualsiasi comunicazione. Ma anche la stampa, devo dire, la stampa e anche le affissioni per i creativi erano molto divertenti da usare. Mi ricordo, collaborai al lancio di Panorama, che fu uno dei primi lanci in cui si mettevano i manifesti nel metrò con alcune frasi da finire, la gente doveva... E c'era già un primo esempio, sto parlando degli anni 70, di tentativi di interattività. Non dico che cosa la gente scriveva sui manifesti, però insomma era un primo tentativo. Poi via via negli anni, diciamo, è inutile dirlo, è una banalità, la grande rivoluzione è stata l'avvento di internet nel 95-98 e di lì le cose hanno cominciato a prendere una piega assolutamente complicata, nel senso che... Ecco, sì, magari all'inizio con qualche esuberanza anche eccessiva. Certo, infatti fu creata la famosa cosiddetta bolla di internet, dove andarono a picco un sacco di aziende che avevano creduto di mettersi sul mercato aspirando a grandissimi risultati economici, e invece ci si sta rendendo conto, c'è un proverbio, che un aforisma che gira negli Stati Uniti da molto tempo, che dice che quello che era un dollaro nella televisione di prima è un centesimo nel mondo web, nel senso che il mondo web è molto ricco, molto, molto variegato, ma ci si guadagna molto poco. Insomma, il risultato è che dobbiamo faticare molto di più per fare lo stesso risultato di prima. Ecco, forse economici, con qualche elemento che si può revocare, noi della nostra generazione pensavamo ai computer come degli strumenti di calcolo, i computer sono diventati degli strumenti di comunicazione, però è rimasto un po' questa mentalità di usare il computer solo per calcolare, non per comunicare. Invece il computer ormai è diventato qualcosa che ha cambiato, da strumento è diventato quasi un elemento della comunicazione. Ma direi sì, soprattutto a fronte, questo magari è rimasto per il computer, diciamo, DOS, per quelli di tradizione non Mac. Invece il Mac, la grande invenzione di Steve Jobs, è stato di fare un computer che nasce proprio dal suo studio che lui aveva fatto, avendo fatto addirittura un corso di calligrafia. Lui gli è venuto in mente di fare il Mac in questo modo. E quindi è nato questo computer, soprattutto adatto agli art director. Infatti, se oggi andiamo in qualsiasi luogo, laboratorio o agenzia dove c'è qualcuno che disegna, ha soltanto un Mac, non ha un altro. Questo Mac ha poi generato tutta l'altra questione a base di icone, per cui l'iPhone, l'iPod, l'iPad, che come vediamo sono quasi quasi dei giocattoli, piuttosto che sono dei mezzi, degli strumenti per disegnare, per sentire musica e anche per scrivere, se vogliamo, e per mandarci le poste. Ecco, ma adesso, luglio 2011, possiamo dire forse anche un po' troppo? Ma un po' troppo, non lo so, io sento dire una quantità di inesattezze e anche di sciocchezze su queste cose. Indubbiamente il fenomeno è talmente esplosivo, è talmente invasivo, per cui poi l'aggiunta ulteriore è stato il social networking, cioè la possibilità di mettersi in comunicazione. La grossa rivoluzione non è stata tanto la nascita di internet, che già è stata una bella rivoluzione, che possiamo considerarlo come un Big Bang, ma dopo è stato che passare dalla comunicazione da uno a tutti, cioè uno trasmette uno spot alle 8 di sera e lo guardano in 8 milioni di persone, questo è il cosiddetto broadcast, come dicono gli americani. E adesso siamo nella comunicazione da tutti a tutti, cioè chiunque ha un'idea carina, divertente, interessante, la mette sul web e dopo due minuti può fare il giro del mondo. E noi, come è successo anche per le recenti elezioni e per il referendum, scopriamo che la potenza di questo mezzo, in termini anche di ironia, in termini, si chiama user generated content, cioè contenuti prodotti dalla gente medesima, che ha preso un film, ci ha messo le didascalie, ci ha cambiato il testo, e sono venute fuori delle cose assolutamente divertenti, che però sono deflagranti dal punto di vista della rivoluzione anche nella comunicazione. Ecco, quando intendevo troppo e dicevo forse il virtuale rischia di restare virtuale, non essere un passaggio per quel rapporto interpersonale, che comunque è sempre un valore. Beh, diciamo che questo è uno dei pericoli della rete, però quello che è avvenuto, secondo me, proprio prendendo come spunto le elezioni e il referendum, è stato che il virtuale si è collegato al reale, perché se noi guardiamo i numeri, noi oggi dobbiamo capire che in Italia siamo in Europa, l'Italia è al primo posto, lo dice un recente studio della Comunità Europea, al primo posto per famiglie che non sono collegate a internet. Quindi il 41% degli italiani non sono collegati a internet, così come le case nelle case degli italiani arriva la banda larga la metà rispetto alla media europea. Quindi non è possibile che si sia provocata una tale rivoluzione con un mezzo che è ancora così asfittico. Ecco, evidentemente vedremo. Ha funzionato da detonatore. Incontri. Buon pomeriggio, ancora buona domenica e buona estate a quanti ci ascoltano. Riprendiamo il nostro filo, la nostra conversazione con Alberto Contri, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso di Lombardia Film Commission. Abbiamo visto nella prima parte la sua esperienza, questi 40 anni, come è cambiata la comunicazione. Tra l'altro Alberto Conti ha ricevuto nelle scorse settimane una laurea, un honoris causa in... Relazioni pubbliche delle imprese e delle istituzioni, allo IURB di Milano. E una laurea... Perché? Proprio per questo approccio, diciamo, è stato premiato, sono anche contento personalmente, non c'è dubbio, ma anche perché finalmente è stato premiato un esponente della professione, non è stato premiato il cantante, il motociclista come ultimamente si faceva, e quindi lo considero un premio un po' a tutti i colleghi. E forse anche un po' per l'approccio che io ho dato allo studio in questa materia, ho fatto una lectio magistralis basata su un concetto molto interessante che è benvenuti nell'era della costante attenzione parziale, cioè... E che vuol dire che i ragazzi di oggi, ho presentato una foto dove si vedeva una ragazza con sei braccia come fosse la Dea Kali, e in ogni mano aveva un telecomando, il telecomando un mouse, il telecomando della PlayStation, un panino, una tazza di caffè, il telecomando del televisore. Far capire che i ragazzi oggi, e che poi i ragazzi sono anche 18-30 anni diciamo, consumano i media tutti quanti assieme. Quindi oggi è anche sbagliato dire ma è morta la TV, nasce internet. No, ci sarà la compresenza di tutti questi mezzi che vengono a me però colti nelle loro parzialità, purtroppo collezionano frammenti. Quindi io... Ecco, c'è un grande rischio di superficialità. Assolutamente, io lo noto anche all'università, i ragazzi arrivano a 22 anni e sono incapaci di parlare un italiano bello, fluente, corretto, ben strutturato. Questo è un grave problema, proprio perché sono abituati a vivere di frammenti. Ecco, no? Come recuperare l'equilibrio, cioè usare lo strumento come strumento, recuperare la capacità anche di relazione. Io quello che gli insegno loro è che devono imparare a concentrarsi, devono imparare a spegnere un po', fermare qualcuno di queste braccia e concentrarsi su un solo mezzo. Glielo spiego tecnicamente, spiegandogli che il cervello non può fare, il conscio perlomeno non può fare più di un certo numero di operazioni, mentre l'inconscio può fare tutto quello che vuole, quindi bisogna nutrirlo, ma bisogna nutrirlo concentrandosi, e se non si concentra non ci riusciamo mai. O almeno mai. Una per volta. È difficile, è molto difficile, perché almeno uno... loro credono che sia un fatto di innovazione, invece no, secondo me può essere il rischio della fine del mondo questa, Fine del mondo, cioè la fine del pensiero razionale. La fine del pensiero razionale e del pensiero strutturato, perché alla fine si scopre che i bambini elementari non fanno più il riassunto, ma quello era il primo esempio di analisi e di sintesi con parole tue. Imparavi a usare questo fantastico computer, ben di più se vogliamo dire, che abbiamo nella testa. Non si fa più il riassunto e quindi comincia da lì il disastro. Ecco, quindi però bisogna ricominciare da capo. Ricominciare anche recuperando... La grande forza che hanno questi strumenti è la forza, per esempio, dell'aggregazione, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, proprio con la capacità di influenzare il pensiero politico, le scelte politiche. Pensiamo a quanto è avvenuto nelle piazze dei paesi del Nord Africa. Le donne, in occasione di quello, in occasione della manifestazione delle donne. Cioè, stiamo ben attenti perché, ripeto, non è tutto virtuale quello. Poi, per carità, sulla rete ci sono anche un sacco di bufale. Negli ultimi giorni si è scoperto che due grandi blogger femmine, tutte e due, una grande lesbica famosa e l'altra lo stesso per l'omosessualità femminile, erano due maschietti assolutamente eterosessuali, uno un pensionato dell'Illinois e un altro un tale signore americano che non mi ricordo il cognome, e quindi però sono stati smascherati dopo un po'. Quindi sulla rete non si può buggerare troppo, perché la gente va a vedere. Certamente il meccanismo che si è creato è che, essendoci una determinata censura, se vogliamo, soprattutto sui referendum, non si è potuto approfondire, i grandi media non ne parlavano, nasce quel fenomeno come i bambini, gli vieti una cosa, loro vogliono andare a vedere. Così è successo sulla rete. Però, ripeto, se non ci fosse stata una connessione tra i gruppi virtuali, le piazzette virtuali e le piazzette vere, le famiglie vere, dove ciascuno aveva in famiglia un giovanotto che veniva a raccontare cosa aveva visto sulla rete, ti fa vedere la clip divertente, la clip dissacrante, addirittura le statistiche vere, giuste, giusto inventate sul nucleare, sì o no. Insomma, la vera conversazione è venuta lì, non è venuta altrove. Questo è stato un grossissimo errore politico, non prenderlo in considerazione. Ecco, però c'è anche un ruolo che va riscoperto di una famiglia tradizionale che deve guidare i giovani, per esempio, a sfruttare questi mezzi, che deve accompagnare anche un rapporto con questi nuovi strumenti. Ma non solo la famiglia, anche gli insegnanti. Io l'altra cosa che mi ha spesso fatto inorridire è scoprire che gli insegnanti, siccome non sanno usare le nuove tecnologie informatiche, lasciano fare ai giovani, dicono: ma tanto questa roba vostra, non è vero, voi dovete chiudere. Tanto in tre sabati un insegnante bravo impara tutto quello che c'è da imparare, a navigare su internet e a mandare una mail e cercare qualche contenuto su Google. E devo dire, c'è una grandissima riscoperta, perché il dato che mi ha confortato è che le università della terza età dedicate all'informatica sono tutte overbooked, cioè sono pieni sono le file di anziani che vogliono imparare, perché oltretutto ti mette in relazione, ti toglie dalla solitudine, ti permette di fare anche del lavoro a casa. Quindi naturalmente con un grano sale, ecco, la tecnologia, come diceva Laurie Anderson, una grande cantante pop, è il nuovo fuoco del bivacco intorno al quale ci raccontiamo le nostre storie, quindi è un mezzo per raccontarci le nostre storie, ecco, non è la vita in sé. Un racconto però è qualcosa di più di un messaggio SMS o di un lancio su Twitter. Assolutamente, ma infatti questo bisogna spiegarglielo, questa è la fatica che io faccio. Devo dire che dopo poche lezioni, coinvolgendoli in laboratori con esempi concreti, i ragazzi capiscono, però bisogna risalire un po' la china, perché sono gli stessi genitori che ormai si sono lasciati trascinare da questa moda entusiasmante che la tecnologia è tutta. La tecnologia è sempre stata un mezzo e continuerà a essere un mezzo. Cioè, magari i genitori che vanno a cercare su Facebook cosa fanno i figli. Ah, sicuramente lì lo scoprono, si scoprono anche molte amanti. Ecco, ma come sarà il futuro dell'innovazione nella comunicazione? Cosa ci sarà tra 10 anni? Che cosa sopravviverà di questi strumenti? Io credo che c'è una cosa che non cambierà mai. Al centro sia della comunicazione commerciale e poi anche di quella sociale, se vogliamo parlare un secondo, c'è sempre un concetto che viene poi declinato in varie modalità. Un tempo c'era la televisione e i poster, e adesso c'è internet, Twitter, ci sono mille altri modi, ci sono i virali. Oggi la viralità sta esplodendo. Ma cosa vuol dire? La viralità è di nuovo, cioè vuol dire mettere in rete un video e aspettare che la gente se lo passi. Questo vuol dire virale. Naturalmente, se io, anche in termini pubblicitari, adesso potrei raccontare una serie di esempi, ma diventa troppo lungo, di esempi commerciali di grandissimo successo, di aziende che hanno messo uno spot molto divertente, ma solo sulla rete, non l'hanno messo in televisione. La gente se l'è passato per puro divertimento e ha fatto milioni e milioni di contatti. Allora, questo vuol dire virale. Ma il virale, poi la gente lo prende, lo ricopia, lo rifà finto, lo rifà falso, ci aggiunge delle cose. Vuol dire che se tu hai un concetto molto forte, in qualsiasi modo venga impanato, fritto, rigirato e riofferto in altro modo, il concetto di fondo ci sarà sempre. Se invece credi che tutto sta nell'esecuzione della viralità, sarebbe come dire che io mando un messaggio tramite la posta. Sì, ma cosa c'è scritto dentro? E questo, ecco, è il punto. Ma non rischia tutto di diventare pubblicitario, in un certo senso, nel senso negativo del termine, cioè nel senso di far vedere solo alcuni aspetti, solo alcune realtà, solo alcune dimensioni, e non dare quella sensazione, appunto, di giudizio complessivo che deve esserci comunque sulla realtà. Uno dipende anche da quale realtà si circonda. Allora, prendiamo uno: che tipo di amici ha? Io non ho più di 100 amici su Facebook, e sono solo amici che mi segnalano il libro più interessante, il film più interessante, ci scambiamo anche gli spot più interessanti, se vuoi, gli spot sociali, gli spot commerciali, gli spot divertenti, le canzoni. E questo è una conversazione assolutamente elevata di persone solo che conosco già di persona, e quindi è un modo di affrontare. Poi ci sono quelli che l'affrontano: voglio avere 4.000 amici, non so chi siano, certo, e vedo la qualunque. Quelli sprofonderanno in un mare di stimoli assolutamente insignificanti. Questo è il vero problema. Ecco, quindi ci vogliono dei criteri di giudizio anche nell'affrontare. Assolutamente. Però qui torniamo al ma problema iniziale. Ma ci vuole iniziale. Il senso critico. I genitori devono insegnare ai figli il senso critico. Non è vero che non si può, certo che non puoi impedirgli di guardare la televisione, ma se non gli insegni da piccoli a fargli capire cosa stanno guardando, li abbandoni da soli quando hanno visto 100.000 atti di uccisione in 2 anni, si domanderanno che male c'è da ammazzare uno che ti sta antipatico. Adesso sto esagerando, ma mica tanto. Certo. Ecco, l'Italia come è messa sotto il profilo della pervasività di questi strumenti di comunicazione ed anche della capacità critica nell'utilizzarli? Ma mi sembra messa maluccio. Cioè, innanzitutto siamo messi maluccio perché anche sono tutto sommato meno diffusi che altrove. Sono molto meno diffusi che altrove. purtroppo i genitori ammollano il cellulare ai bambini di 4 anni e quindi addirittura commettono, secondo me, un errore gravissimo. È lo stesso motivo per cui non gli racconti più una favola, gliela fai sentire registrata. Insomma, sarebbe anche opportuno che ci fosse il rapporto personale. E poi siamo messi in maluccio anche come tipo di qualità della comunicazione. Insomma, noi siamo un po' alla periferia dell'impero, o ricopiamo quello che si fa all'estero, ma di originale purtroppo in questo che noi siamo il paese della musica e dell'arte, stranamente in questo settore siamo molto carenti. In Italia si è sempre letto molto poco, soprattutto i quotidiani se ne leggono ancora meno. Certo. Anche questo è questo, dai, ma devo dire, l'attitudine a leggere poco è ancora più complicata nei ragazzi di oggi. No? Non si fa fatica a tenergli l'attenzione per più di 10 minuti. Immaginiamo a tenerli su 3 pagine per un po' di tempo, è impossibile. Allora, un consiglio a un genitore che ha 2 figli di 14 e 15 anni. Lì è già tardi, bisogna che io ho 2 nipoti piccolini, uno di 3 e uno di 1. E a loro proprio li insegno, li faccio venire, hanno preso il gusto di leggere, almeno quella di 3 anni ovviamente, certo, di farsi raccontare le cose, e l'altro sta lì che guarda, però sono circondati da stimoli che sono di questo tipo qua. Cioè, natura non fa cizzalto, se è inutile, ma anche c'è anche l'uso del cartone animato, anche l'uso di questi programmi audiovisivi fatti per i piccoli, che vanno benissimo. Però noi abbiamo concentrato insieme, d'accordo con i loro genitori, 1 ora al giorno, 1/2 ora al giorno, non di più. Capito? Questo è un fatto bene. È come una pianta, non è? Se gli dai 300.000 litri d'acqua al giorno, morirà soffocata. Ci vuole una misura anche ci in queste cose. Misura, assolutamente. In queste cose. E poi però sapendo che l'innovazione è un grande aiuto, è un grande stimolo, e insegnargliela, fargli capire come funziona. Quando hanno già 13-14 anni e sono presi solo dall'aspetto ludico della tecnologia, e bisogna fargli capire che questa è una deviazione pericolosa. A quell'età lì è un po' dura. Ecco, bisogna fargli scoprire anche il senso del bello nel guardare un panorama. Assolutamente, fargli vedere un quadro dal vero, fargli vedere, portare le mostre. I nostri piccoli li portiamo, non so, a 3 anni, li abbiamo portati a vedere gli impressionisti, non ha capito niente, però hanno visto questi colori splendidi e gli hanno avuto un imprinting, diciamo, nella corteccia cerebrale, che se la ricorderanno più là. Ci vuole un po' di coraggio, in fondo, anche in queste cose. Grazie mille, grazie ad Alberto Contri di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Valeria Bernardi in regia, Anita Palizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica a tutti.